Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Ambiente e Salute da parte di Antonio Ceccato. Questa volta parliamo di pesticidi, un argomento di grande attualità. Vedi la candidatura UNESCO delle colline del Prosecco. Questo vuole essere uno spunto di riflessione, uno stimolo che va approfondito da parte di tutti e di ciascuno, perché ogni vera rivoluzione, tra virgolette, può partire solo dal basso. Vi ricordiamo la possibilità di ascoltare o di scaricare il podcast della trasmissione e per suggerimenti o richieste su info@bluradioveneto.it. Per svolgere questo importante argomento abbiamo chiamato il dottor Francesco Cavasin, al quale lasciamo subito la parola, anzi al quale rivolgiamo una domanda. Oggi parliamo di pesticidi. Perché e cosa sono? Parliamo di pesticidi perché? Perché sono delle sostanze ormai tanto utilizzate e ubiquitarie. Sono sostanze che interferiscono, ostacolano e distruggono organismi viventi, microorganismi, animali, vegetali. Soprattutto quelli utilizzati in agricoltura su base industriale. Faccio riferimento ai diserbanti, ai fungicidi, agli agenti chimici che sono usati per difendere colture da insetti, acari, batteri, virus e funghi e per controllare lo sviluppo di piante infestanti. I fitofarmaci sono per la massima parte, questa è l'altra parola che viene utilizzata per designare questo gruppo di molecole, certo, di sostanze, quindi pesticidi in agricoltura sono di solito citati come fitofarmaci. Sono per la massima parte sostanze tossiche, persistenti, bioaccumulabili e che hanno un impatto sulle proprietà fisiche e chimiche dei suoli e sono estremamente nocive non solo per la salute dell'uomo, ma per l'intero ecosistema e per qualunque organismo vivente. E per la catena alimentare, presumo anche. Che poi andremo, certo, perfetto, a trattare. Benissimo. Quali sono gli obiettivi dell'ISDE in questo ambito? L'ISDE si è sempre, da sempre, interessata al fenomeno, diciamo, e per tradurre chiaramente quello che è il suo ruolo in questo ambito specifico, mi rifaccio alla direttiva 2009/128 della Comunità Europea che all'articolo 7 cita questo, lo cito testualmente: gli Stati membri adottano misure volte a informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi e potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, degli organismi non bersaglio e l'ambiente che comporta il loro impiego e sull'utilizzo di alternative non chimiche. Su questa direttiva, in sostanza, che l'Italia ha fatto suo, c'è molto da fare e lo ricordavi tu proprio nella presentazione di questo incontro. La diffusione dei pesticidi coincide, a proposito di rivoluzione, con quella verde, la rivoluzione verde cosiddetta. Perché? Allora, negli anni 30-40 si è passati da un'agricoltura di sostentamento, che era quella proprio anche delle nostre parti, proprio delle nostre campagne, del Veneto, a un'agricoltura più a dimensione industriale, quindi con una grande trasformazione in termini proprio di resa anche di prodotto, ed è quello che viene da tutti ricordato come il periodo della rivoluzione verde. Questa non ha potuto non esserci se non attraverso anche l'utilizzo di tutte le tecnologie che sono state messe a disposizione di un'agricoltura che inizialmente era povera. Tra queste tecnologie, oltre ai mezzi, ci sono anche queste sostanze chimiche che sono state introdotte in larga misura e naturalmente tutta la ricerca sulle piantagioni e sulla evoluzione di queste piantagioni, andando a selezionare quelle piante o quelle colture che producono molto più risultato rispetto alle colture tradizionali. Quindi tutta la ricerca fatta in questo campo è stata tale che ha portato effettivamente a un'agricoltura di grandi rese. Quanti sono i pesticidi e quali le loro dimensioni di utilizzo? Allora, le sostanze chimiche che sono adoperate dall'uomo sono tantissime. Ci basiamo sull'ente regolatore che le traccia, ci sono circa 150.000 sostanze chimiche che vengono prodotte dall'uomo. Però. E che vengono fatte proprio dall'uomo. Nel 1981 all'interno di questo gruppo di sostanze ci sono 1.500 sostanze chiamate pesticidi, cioè formulati commerciali, mentre le molecole attive sono circa un centinaio. Nel 75% di questo abbiamo che il consumo di pesticidi riflette soltanto una cinquantina di molecole attive. Nel 2009 poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elencato circa 550 molecole attive in uso e circa 150 che non sono più utilizzate. In ogni anno si calcola che vengono rilasciate nell'ambiente, in tutto nella terra, circa 2,5 milioni di tonnellate di pesticidi di sintesi, però. In prevalenza per usi agricoli. Il 40% è rappresentato dagli erbicidi, le cui vendite superano di gran lunga quelle degli insetticidi e dei fungicidi. Nel panorama dell'agricoltura europea, l'Italia è il paese che utilizza la quantità maggiore di pesticidi. Perfetto. E quali le conseguenze però per l'ambiente? Vorrei ancora su questo cose. Prego. Allora, la quantità maggiore di pesticidi, i principi attivi, in termini assoluti, in Italia è pari a 61.890 tonnellate. Sia ha il suo primato, sia in termini di consumo per unità di superficie coltivata. E questo lo dice lungo anche rispetto a quanto è il consumo negli altri paesi europei. L'Italia è al primo posto per questo, seguita dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito. Nel 2005 si utilizzavano il 39% dei fungicidi, il 36,4% degli insetticidi e il 10% degli erbicidi e il 37% degli altri composti. Possiamo dire che tra i consumi più elevati le regioni che la fanno dalla maggiore per questo sono il Trentino Alto Adige con 42,3 kg a ettaro, poi segue il Veneto con 12,6 kg a ettaro, la Campania, la Liguria, la Sicilia, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia. Il consumo più basso è registrato nel Molise. Perfetto, ci fermiamo un attimo per il brano musicale. Una costellazione di finestre in tutto il quartiere sospira la sera. Tua madre che aspetta da sola Francesca che torna da scuola. Tutto sembrava più grande ai miei occhi. Al bar si parlava di quelle ragazze fuggite, si dice, per vedere Berlino. Poi una flotta di amici disfatti sopra un motorino. Francesca, lo so, si diverte a Berlino. Ama una ragazza con la giacca perfetta, agli occhi truccati di un nero corvino. Lei non vuole cambiare il mondo, vuole solo lei. Vuole solo lei. Una vita fa. Luce sui nostri dei. diciamo se abbiamo fretta del mondo, ma la faccia che avevo era dell'Ottocento. Tutti quanti vorrebbero un appuntamento con qualcuno che aspetta solo te. Per esempio io voglio solamente Isabella, ma lei vive a Berlino, ha una giacca perfetta e dagli occhi truccati di un nero corvino. Lei non vuole cambiare il mondo, vuole solo lei, una vita fa. Costellazione di finestre in tutto il quartiere sospira la sera. Dopo il brano musicale ritorniamo in studio per parlare dei pesticidi con il dottor Francesco Cavasin, al quale chiediamo quali sono le conseguenze per l'ambiente di questo utilizzo. Sì, sono sostanzialmente tracciabili in due ambiti, quello delle acque, della contaminazione delle acque, e quello degli alimenti. Per quanto riguarda le acque abbiamo dei dati che sono quelli nazionali dell'ISPRA e che ci dice che nelle acque superficiali nel biennio 2011-2012 sono stati trovati residui di pesticidi nel 55% dei vari punti prelievo che sono di solito utilizzati per il monitoraggio. La maggioranza. Nel 17% di questi casi le concentrazioni di queste sostanze erano risultate superiori ai limiti previsti dagli standard di qualità ambientale. Mentre nelle acque sotterranee si sono trovati contaminate queste acque nel 31,8% dei casi, e nel 6,3% di questi le concentrazioni erano superiori ai limiti di legge. Quindi diciamo che abbiamo una situazione che è assolutamente da monitorare, tenendo in considerazione che le acque superficiali sono sostanzialmente quelle che vengono utilizzate anche per l'irrigazione, mentre quelle profonde sono anche poi anche queste vengono utilizzate per uso umano, quindi negli acquedotti, e quindi anche questo è importante tenere in considerazione. Queste sostanze sono anche sostanze, come si è ricordato all'inizio quando si è data la loro definizione, sostanze che persistono nell'ambiente, non vengono diluite, e c'è il rischio di un bioaccumulo che poi vedremo, ed è su questo che si basa la nostra preoccupazione, proprio perché è da questo che ne derivano poi le conseguenze sulla salute. Per quanto riguarda invece l'aspetto alimentare, ecco, dire questo che è importante, direi, da sottolineare. I pesticidi possono essere respirati, possono essere assunti per via cutanea attraverso le mucose, oppure possono essere anche ingeriti. Quindi quello che è importante, come si diceva prima, è proprio il fatto che una volta introdotti nel nostro corpo vanno a bioaccumularsi, cioè si accumulano all'interno del nostro corpo, dove? Nel tessuto adiposo, perché sono sostanze liposolubili. E tra questo uno degli aspetti più importanti a tenere in considerazione è il latte materno, e in misura minore possono anche, sicuramente sono trovate anche concentrazioni di pesticidi nel tessuto nervoso. La conseguenza di tutto questo è che abbiamo sicuramente un dato importante, che è quello che più evoluto è l'organismo umano e più abbiamo la possibilità che questo accumuli al suo interno una maggiore concentrazione di queste sostanze. E quindi nella filiera, diciamo, si parte dai microorganismi che possono avere un accumulo anche infinitesimo di queste sostanze, ma se arriviamo all'uomo, che è all'apice della evoluzione, abbiamo che questo, proprio per il processo di bioaccumulo, diventa l'organismo che accumula in concentrazioni maggiori questo tipo di sostanze. E questo ha quello che noi chiamiamo un processo di biomagnificazione, cioè all'interno di questo organismo, del nostro corpo, queste sostanze hanno un effetto molto ma molto importante proprio per gli effetti che queste hanno proprio sulla salute. A che cosa è dovuta la tossicità dei pesticidi? La tossicità è dovuta proprio alla loro situazione, al loro meccanismo di azione e al fatto che proprio vanno ad bioaccumularsi. Si possono distinguere due tipi di effetti, quelli acuti e quelli cronici. Quelli acuti sono quelli dovuti a una esposizione ridotta nel tempo e concentrata nel tempo, e quelli che vengono definiti poi effetti di tossicità acuta, mentre quelli a lungo termine, che sono dovuti anche a basse esposizioni però ripetute nel tempo, possono dar luogo a quelle che sono la tossicità così chiamata tossicità cronica. Preoccupante. E questo tipo di dovuti soprattutto agli effetti che possiamo avere sul sistema nervoso, sul sistema endocrino, cioè sulla funzione delle ghiandole, sul sistema immunitario, sul sistema riproduttivo, renale, cardiovascolare e respiratorio. E quali sono le età più critiche? Le età più critiche di queste sono quelle naturalmente dell'infanzia, e non direi solo dell'infanzia ma anche prenatale, quindi andiamo anche alle donne giovani che sono in gravidanza. E poi soprattutto nei periodi adolescenziali di un organismo che è in via di evoluzione e che è esposto, come può essere, anche a queste sostanze, le va ad assumere in percentuali sempre crescenti e con interferenze dirette proprio sul sistema di evoluzione proprio dell'organismo. Che cosa cambia se si utilizzano insieme più pesticidi? Questo è un dato assolutamente interessante e sul quale la ricerca sta facendo molto, perché non sempre è facile poterlo verificare questi effetti. Si conosce molto bene a livello scientifico, della letteratura scientifica ne dà grande dimostrazione, degli effetti delle singole molecole, delle singole sostanze, dei singoli pesticidi, ma quello che non si conosce è l'effetto combinato, che può essere sinergico, cioè una aiuta l'effetto tossico dell'altra sostanza, come possono essere anche effetti nuovi, non prevedibili, e quindi come tali ha maggiore impatto sulla salute. Ecco, su questo si sta facendo molto, si sta ricercando molto, proprio perché è un aspetto ancora da conoscere bene. Quali rimedi proporre? Perché a questo punto dobbiamo avere qualche speranza, diciamo, ecco. I rimedi sono naturalmente, fin da quando con la rivoluzione verde che si ricordava prima si è evidenziato quanto si sia abusato poi dell'utilizzo di queste sostanze, di questi pesticidi, si è cercato di porre già dei rimedi, e quindi a livello internazionale le varie entità preposte, i vari organismi hanno cercato di mettere in atto dei provvedimenti a cui hanno tutti sottoscritto il loro impegno i vari paesi, però poi dall'impegno all'applicazione di questo impegno purtroppo ne passa di strada, esatto. E ci sono delle differenze. normative e anche di applicazione di queste norme. Quali raccomandazioni? Le raccomandazioni possono essere molto semplici. Ci sono raccomandazioni che riguardano appunto le istituzioni pubbliche e quindi possiamo dire che si chiede un rigoroso rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo del 14 agosto 2012 relativo all'uso sostenibile dei pesticidi e si ritiene che su questo si debba esercitare un'adeguata azione di vigilanza. Bandire dai suoli pubblici qualunque tipologia di diserbanti e di pesticidi, istituire delle diete biologiche per le scuole, visto che consideriamo che l'aspetto, uno degli aspetti più importanti è l'azione di queste sostanze sull'organismo in evoluzione, soprattutto quindi sui bambini. E questo è a livello, diciamo, macro. Poi c'è un livello individuale e familiare. Quindi privilegiare il consumo di alimenti di agricoltura biologica e biodinamica nelle varie fasi della vita. Evitare qualsiasi esposizione a rischio, sia nelle madri che nei padri. E ricordiamo che sì, la madre la persona in gravidanza può essere sottoposta a un importante rischio per lei e per il bambino e per il feto, ma anche l'uomo, soprattutto l'uomo giovane nell'età fertile. Noi ringraziamo il dottor Cavasin per questa sua esposizione così completa e diamo uno stimolo di riflessione ai nostri ascoltatori. Alla prossima volta. Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.